posso dirlo agli altri, che insomma, avendoli curati tutti, diventa imbarazzante. Infatti sarà anche particolare la presentazione che tra poco faremo di Gellert Hamas, legata molto alla figura di Goffredo Fofi, perché questa festa libera della lettura è una festa che, non so se qualcuno ha sentito l'incontro inaugurale con Carlo Zuri Staffon, è anche un po' una celebrazione di una delle principali modalità di diffusione dei libri e delle più sottovalutate, e per certi aspetti, se vi è capitato di leggere oggi un'intervista su Repubblica, un importante editore italiano che tra l'altro sarà qui oggi nel pomeriggio alle 16, cioè Cavallero, il direttore di Mondadori, una pratica anche un po' temuta osservata dagli editori con un misto di attenzione, rispetto anche, ma preoccupazione, che è il passaparola. Abbiamo la prima sera cercato di vedere come il successo dell'Ombra del Vento, cioè di una cosa che vedo 10 milioni di copie nel mondo, fosse legato al passaparola. Cose di questo tipo non mancano nel programma della festa di Libri Come, che è una festa del libro e della lettura, e cioè dei lettori, e cioè celebra il passaparola come una delle principali attività, anzi delle forme, delle declinazioni del piacere della lettura, che è un piacere che si tende in queste forme a condividere. Dico questo perché l'incontro a quale tra poco assisterete è molto legato al passaparola operato per esempio nei miei confronti da Goffredo Fofi. Il passaparola ha qualcosa di simpatico, di empatico, qualcosa di minimo, però anche qualcosa di autorevole, cioè quando uno col passaparola insiste, esercita, per Goffredo nei miei confronti non è mai stato difficile nella nostra vita, esercita una forma anche di autorevole pressione. Allora, mentre vi dico che appunto l'attenzione particolare con cui abbiamo seguito questo consiglio è dovuto all'ammirazione che abbiamo per Goffredo Fofi come lettore, e lo dico perché domani alle 3 finalmente sarà lui a essere intervistato da Mariana Dotti, e vi assicuro, vi inviterei a non perderlo quell'appuntamento, anche se vedete nel programma contemporaneo e quindi compete con altri nei quali sono più direttamente impegnato, perché appunto Goffredo Fofi è soprattutto un gran lettore, e in quanto tale domani finalmente insomma verrà chiamato a rendere conto di questa sua passione, di questa sua mediazione. Io lo inviterei subito, violando un po' l'ordine in genere del Goffredo Fofi, lo inviterei subito qui prima ancora di conoscere Gellert Hamas, violando l'ordine, grazie, in genere delle presentazioni, perché prima ancora che Hamas arrivi, Goffredo, di fare dire in 30 secondi perché il tuo passaparola nei nostri confronti, da quando abbiamo detto vieni a Libri Come, tu hai detto sì vengo ma dovete invitare Gellert Hamas, poi uno magari sarà anche scordato, dopo 2 settimane ti ha richiamato, allora tutto bene, tu hai detto sì però dovete invitare Gellert Hamas, e alla fine grazie anche per Bora e Emilia Lodigiani ci siamo riusciti. Perché di tutti i libri che ti è capitato di leggere quest'anno, gli autori che hai trasmesso, le opere di mediazione che hai fatto col tuo lavoro, con le tue riviste, con la tua voce, quest'anno e anche con cose più autoritarie, come vedete, con dei gesti di pazienza, hai scelto Gellert Hamas, così poi lo presentiamo. Il motivo è molto semplice, il tema delle migrazioni, dell'immigrazione anche in Italia oggi è enormemente scontante, e è su quello che si deciderà anche il futuro dell'Europa, rapporto con gli immigrati che riusciremo a stabilire o che già si cerca di stabilire in certe situazioni. Io personalmente sono molto legato a questo tema perché sono figlio di emigrati italiani in Francia e sono autore negli anni, primi anni 60, della prima grossa inchiesta sull'immigrazione meridionale nel nord, nella fattispecie a Torino. Quindi ho continuato a seguire questi problemi dell'immigrazione, prima pensando agli immigrati italiani all'estero o dal sud al nord, e poi occupandomi della situazione attuale e all'interno di un mondo globale totalmente nuovo per noi, dove il problema della convivenza con l'altro diventa centrale. Se non si risolve questo problema si va verso scontri mortali e verso una civiltà invivibile. Questo libro a me è sembrato straordinario perché è una grande inchiesta, però un'inchiesta non autoritaria, è un'inchiesta costruita con l'abilità di un grande romanziere. Grande romanziere e forse anche grande montatore, regista cinematografico. Prima Gellert mi diceva che ha lavorato molto in televisione come sistematore dei materiali d'attualità che arrivavano dall'estero, quindi doveva fare il montaggio, doveva continuamente esercitare queste tecniche. E il libro è un libro appassionante che racconta il caso di un serial killer thriller in Svezia che spara agli immigrati, però racconta, vabbè, adesso ne parleremo, allora, mi sembra è un libro, volevo farvi vedere come il passaparola. Insomma, di l'Europa sarà un paese civile solo se saprà trovare la chiave per affrontare, allora, bene insieme Goffredo, adesso non dovevo mica te ne vai, ah no, vabbè, pensavo di aver finito là su. Adesso insieme accogliamo, salutiamo bene il tanto. Io vi lascio, arrivederci. Vabbè, si è levato il pensiero. Bene, continuo in questa breve presentazione perché l'importante è sentire Tamas. Questa storia è una storia assolutamente vera. Per un intero anno, nel 1991, un serial killer misterioso ha fatto degli attentati a danno di immigrati, ne ha ammazzato uno e ne ha feriti altri, per fortuna ha avuto sfortuna nelle sue imprese Questa storia è diventata l'elemento rivelatore di che cosa era diventata la società svedese, dei rapporti interni alla società svedese, non solo nei confronti degli immigrati, ma anche il rapporto destra-sinistra, crisi della socialdemocrazia, di una grande tradizione come era quella della socialdemocrazia svedese. Insomma, novità, un'Europa in sommovimento, 1991, siamo già 20 anni fa, cominciava questa nuova storia. Questa nuova storia dell'Europa. 20 anni fa anche in Italia abbiamo avuto dei governi che sul tema dell'immigrazione hanno lasciato molto a desiderare, come sappiamo, e è un po' di queste cose che il libro tratta, però ne tratta, intanto ripeto, è un'inchiesta non autoritaria, ci sono molte voci che parlano, c'è una simultaneità di ricostruzione delle vicende, c'è la destra, la sinistra, il centro, ci sono le organizzazioni degli immigrati, ci sono i grandi partiti, i sindacati, c'è il re, la regina, c'è la stampa, c'è la polizia, ovviamente, i giudici, c'è un'intera società che si confronta con questo problema, con questo tema. Questa ricostruzione straordinaria è una ricostruzione che a mio parere deve molto al new journalism americano degli anni 50-60, Norman Mailer, Truman Capote e altri, ma deve anche molto al cinema, alla capacità di costruire un montaggio simultaneo di situazioni che crea anche crea l'effetto del grande romanzo, forse ancora un po' ottocentesco, dove una società è sviscerata in tutte le sue componenti a partire da un episodio rivelatore, fortemente, fortemente rivelatore. Io comincerei con, perché appunto siamo qui per ascoltare Gellert, cercherei di far raccontare a lui questo libro, insomma, come è nato questo libro e il metodo che lui man mano ha cercato di elaborare, perché non è molto facile trovare libri di inchiesta così. In Italia noi il giornalismo non fa più inchieste, le inchieste costano, i libri, le inchieste buone in Italia sono quelle che escono come libro, ma anche come libro a volte si fanno inchieste molto superficiali, molto veloci, piuttosto scandalistiche, indignanti, magari molto retoriche, ecco, molto retoriche, e qui invece la retorica non c'è, qui si fa parlare un'intera società perché questa società capisca quali sono i suoi problemi e i suoi nodi, i nodi che deve sciogliere. Quindi, come è nato questo libro? Thanks for the very kind introduction. Grazie per la cortese presentazione. Per capire questo libro dobbiamo comunque ritornare alla Svezia agli inizi degli anni 90, 1991. La Svezia, come molti paesi europei, ha attraversato una delle crisi peggiori dal punto di vista economico dagli anni 30 e nel contempo, come ha detto Goffredo Fofi, abbiamo avuto il crollo del muro di Berlino, il collasso dell'Unione Sovietica, la guerra nella ex Jugoslavia, sconvolgimenti che hanno chiaramente prodotto un gran numero di rifugiati, di profughi che si sono spostati in tutta Europa, rifugiati dall'Albania per esempio. La Svezia, in un certo senso, Ma noi siamo sempre stati ubicati così a nord, nell'estremo nord, un paese che è sempre stato un po' visto come lo stato più stabile, no? Con la tradizione democratica più forte, lo stato sociale che funzionava meglio, e la crisi ha colpito la Svezia molto duramente e ha cambiato la Svezia in maniera più profonda di qualsiasi altra cosa, credo, nella storia moderna, no? Questo periodo, l'inizio degli anni 90. E improvvisamente ci siamo trovati in questo passaggio, perché noi abbiamo sempre avuto una socialdemocrazia molto forte, c'è stato uno spostamento a destra e anche l'estrema destra, i partiti xenofobici sono entrati in Parlamento, sono entrati in Parlamento, e questo non era mai avvenuto prima in Svezia, e questo ha cambiato il panorama politico molto rapidamente. Abbiamo assistito alla nascita di un movimento estremista di estrema destra di stampo militaristico e con centinaia di membri, che immediatamente ha dichiarato guerra al governo svedese, ma non è che parlavano solamente, e quando la polizia li ha catturati avevano un arsenale, no, per un piccolo esercito, un esercito di estremisti di destra, e poi diversi anche campi profughi allestiti dalla Svezia, che nel frattempo aveva allestito questi campi temporanei, tanti rifugiati dalla Jugoslavia, sono stati aggrediti da queste persone. E nel bel mezzo di questa crisi, i movimenti d'estrema destra, gli skinhead che imperversavano, e una persona sconosciuta ha cominciato a sparare a delle persone a Stoccolma, così in pieno centro, durante il giorno. 11 persone in totale sono state aggredite, e avevano capelli neri oppure la pelle scura, questo avevano in comune queste persone. Questo un po' ha creato una situazione caotica e anche una paura molto profonda in Svezia, no? Tutti temevano di poter diventare il bersaglio di questo sconosciuto razzista, ovviamente un killer razzista, perché chiaramente si accaniva contro gli svedesi che avevano magari i capelli neri o la pelle scura. Bisognava vivere quell'esperienza, chiunque abbia vissuto questa esperienza non si dimenticherà mai di questo periodo, perché per molti svedesi ha rappresentato forse il periodo più drammatico della loro vita, con questi omicidi, no, ripetuti, e la polizia che veramente non sapeva che pesci pigliare, sembrava completamente spaesata. È stato chiamato subito l'uomo laser, perché utilizzava un fucile che aveva un mirino laser, e un anno dopo la polizia finalmente ha catturato questa persona. E poi la storia di questo detto uomo laser, no? E quest'epoca, questo periodo così violento di cambiamento tumultuoso in Svezia, in realtà non se ne parlava. Noi abbiamo una tendenza, in gran parte delle società, quando qualcosa diventa sgradevole, no? Poi non se ne parla, cerchiamo di dimenticarlo, no? Di rimuoverlo in qualche maniera. E circa 10 anni fa ho pensato che invece questa storia meritasse di essere raccontata. In un certo senso è la storia di una persona, un killer razzista in Svezia, e la reazione della società svedese, ma in altri modi è una storia tipica che rappresenta l'Europa, che rappresenta qualsiasi paese europeo, qualsiasi società europea, e la reazione che l'Europa ha avuto e che ha alla violenza razzista è anche una storia profondamente triste, molto triste, perché c'è un bambino di origine slava che tra l'altro discendeva da immigrati. Quando è stato catturato finalmente questo assassino, si è scoperto che anche lui aveva origini immigrate, perché il padre era tedesco, la madre svizzera, e anche lui era stato sottoposto a prepotenze quando era un bambino, era stato chiamato sporco negro, e non si era mai sentito parte della società, si è sempre sentito escluso, emarginato per tutta la vita. e quindi ha sempre lottato per essere accettato come uno di noi, no? I veri svedesi, tra virgolette, quelli etnici, non uno di loro, no? Gli immigrati. E in un certo senso è una storia molto triste e interessante nel contempo, ma anche universale, che riguarda l'interazione tra il singolo individuo e la società e come la società non tratta i propri membri, i propri cittadini in maniera uguale, e così facendo può influenzare un giovane o una giovane e affinché poi questa persona senta sempre più odio, non solo nei confronti della società ma anche contro se stesso, se stessa, e poi come atto finale poi cercare di partecipare, di riunirsi all'estrema destra per cominciare poi a uccidere gli svedesi che magari erano immigrati, svedesi che in qualche modo erano suoi consimili. Però questo può essere visto come proprio il modo estremo per prendere le distanze da loro, per diventare come noi la maggioranza, ma cercando di uccidere loro la minoranza. È un enigma psicologico, ma vi è anche una spiegazione di carattere psicologico. E quando ho iniziato a lavorare su questo libro, come tu hai detto, allora ho deciso che bisognasse parlare di questo, perché questo ci proponeva un esempio interessante, anche un insegnamento molto utile riguardo all'interazione tra il singolo individuo e lo Stato o la società in senso lato, e ho deciso che bisognava farlo. E poi alla fine ho trascorso oltre 2 anni proprio impegnato in questo progetto. Ho iniziato intanto incontrando con John Ausonius in carcere, no? L'uomo laser, l'ho intervistato varie volte, ci siamo incontrate una decina di volte, gli incontri erano 5-6 ore ogni volta, ho trascorso un anno proprio effettuando questa ricerca, e poi ho deciso di riraccontare questa storia sotto forma di un romanzo, utilizzando anche parte anche della narrazione classica in un certo senso, come per i romanzi polizieschi, non solo per rendere intelligibile quanto era accaduto, ma anche per trasmettere l'intensità, per produrre un libro leggibile, interessante riguardo a questo periodo e a questa circostanza così particolare. Questo può bastare forse a modo di introduzione, ma possiamo procedere. Sì, il metodo dell'inchiesta è molto importante in questo caso, cioè non si tratta di un giornalismo veloce, un giornalismo di denuncia, un giornalismo di retorica, ma si tratta di una ricostruzione complessa di tutto, a partire da un episodio, di tutto il funzionamento di una società, delle ideologie che attraversano la società, delle tensioni che la attraversano, è costruita appunto come se fosse un romanzo o un'inchiesta poliziesca da grande noir, ma insomma di quelle migliori, insomma, in qualche modo anche il libro di Truman Capote è un noir, è una storia di delitto il racconto di questo delitto per cercare di ricavarne delle considerazioni più generali. In questo caso la considerazione più generale è il rapporto con l'altro, no? Il rapporto con l'altro, con il diverso, che in questo caso però si intreccia con come se fosse uno scontro tra diversi, insomma, tra due diverse forme di marginalità o di difficoltà di essere accettati all'interno di una società. L'aspetto, diciamo così, psicologico del personaggio del Ausonius, il giovane serial killer, è ricostruito nel corso degli anni. Non c'è solo la sua infanzia, la storia della sua famiglia, la scuola dove i biondi bambini svedesi lo trattano da sporco nero perché è scuro di capelli, semplicemente per quello, ma c'è tutto un processo per cui si capisce anche molto bene che se una società fosse un poco più attenta alle difficoltà delle persone non succederebbero cose di questo genere. Cioè è anche un problema, come dire, di come una società educa i propri figli, e qui in qualche modo il sistema svedese ne esce non benissimo, perché la Svezia è molto cambiata in questi anni, non c'è più la grande tradizione socialdemocratica, è un paese attraversato da contraddizioni ovviamente meno gravi di quelle che possono attraversare un paese oggi come l'Italia. Italia, insomma, che è più nell'occhio del tifone dal punto di vista anche dell'immigrazione, perché siamo nel cuore del Mediterraneo, nel cuore di passaggi molto più vasti di popolazione. Però ecco, è cambiata la Svezia, è cambiata la sua classe dirigente, perché io credo che quello che il libro svela è anche il modo di funzionare di una classe dirigente che è una classe dirigente europea e che in questo senso ha anche delle affinità con quella di altri paesi, con altri tipi di politiche, Berlusconi o Sarkozy, ma soprattutto Le Pen o Bossi, per esempio. Vero? Io penso che tutta quanta la questione dell'immigrazione, questa Europa nuova, Europa in cambiamento, dove abbiamo larghi segmenti di popolazione di tutti i paesi che hanno radici e origini, un retroterra che sta fuori dal paese in cui vivono, è sicuramente una delle questioni più importanti che abbiamo da affrontare. Ed è anche per questo che ho scelto questo argomento, questo tema per il mio romanzo. La cosa interessante è che John Ausonius per molto tempo è stato considerato dall'elite, dai mass media del mio paese, è descritto come lupo solitario, come un solitario, un individuo solitario e a sé stante che aveva chissà quale problema psicologico e è agito per conto suo e non aveva niente a che fare con il resto della società svedese. E questo è il modo tipico in cui noi affrontiamo l'estremismo di destra, cioè tendiamo non a vederli, questi estremisti di destra, come persone che hanno una motivazione ideologica, un pochino li liquidiamo le loro gesta come fatti o azioni individuali ed è diverso dal modo in cui reagiamo a atti violenti da parte dei militanti islamisti che vediamo e dipingiamo come aventi delle fortissime motivazioni ideologiche nel perpetrare i loro crimini perché e quindi legati a gruppi, cioè non li vediamo come gesti individuali e quindi ricominciamo con il noi e il loro. Loro sono gente che ha fatto una scelta contraria alla democrazia, gli islamisti militanti sono disposti a commettere i gesti più crudeli, ma quando li vediamo gli stessi gesti crudeli commessi invece da persone che appartengono alla destra estrema, politica o ideologica, ecco che diventano degli individui che hanno dei problemi psicologici. Prendiamo ad esempio l'episodio di Breivik che ha ammazzato l'estate scorsa 77 ragazzi su quell'isola, i 9 morti dell'esplosione a Oslo e l'uccisione di 67 o 68 giovani appunto in questo campeggio della gioventù socialdemocratica perché si pensava che fosse colpa della socialdemocrazia se la Norvegia aveva conosciuto queste grandi trasformazioni che sta conoscendo e aveva modificato la sua politica nei confronti degli immigrati, cioè la politica di lasciarli entrare e quindi Breivik ha deciso di pulire la socialdemocrazia nei suoi rampolli più giovani. Che cosa faccio io in questo mio romanzo, in questo libro? Cerco di prendere il serial killer razzista seriamente, cioè voglio vedere che cosa lo ha formato, lo ha alimentato sia come individuo ma anche nella sua interazione con la società nel senso più lato. E questo per me è un esempio assai interessante di singola persona che si è data tanto da fare, ha faticato tanto a essere accettata e non si è mai veramente sentita ammessa, accettata. Si è cambiato il nome, cognome, perché sembrasse più svedese, si è tinto i capelli cercando di diventare biondo lui stesso, si è comprato le lenti a contatto colorate azzurre per sembrare un vero svedese, tra virgolette, e ancora si sente respinto dalla maggioranza, escluso, emarginato. E allora comincia a dare la colpa dei suoi fallimenti alla società. Come Breivik, anche quest'uomo comincia a dare la colpa all'immigrazione, allo Stato assistenziale, socialdemocratico e alla fine cerca di essere accettato, come dicevo prima, con questo ultimo gesto supremo di cercare di ammazzarli. loro che cercano di essere come noi. Dunque, ecco il nucleo veramente interessante, come l'individuo John Ausonius coglie veramente lo spirito del tempo. Agli inizi degli anni 80 c'è stata una piccola ma molto attiva opposizione contro il governo socialdemocratico in generale e contro Olof Palme in particolare, che ha riscosso l'odio, che ha espresso posizioni di odio sulla stampa di destra, e Ausonius ne faceva parte. E, cosa interessante, è stato uno dei primi sospetti dell'uccisione, l'omicidio di Olof Palme, pensi. E verso la fine degli anni Ottanta, all'epoca di un boom economico della Svezia, e quindi c'erano questi, è stato inventato il concetto di yuppie, cioè questo segmento del ceto medio che si arricchisce tramite, grazie alle speculazioni in borsa, e John Ausonius era lì anche lui per un breve periodo, è stato un trader di successo sulla borsa di Stoccolma. Poi arriva la crisi economica, la borsa crolla dai primi anni 90 e quindi c'è uno spostamento a destra anche estrema. E ecco di nuovo il nostro Ausonius nel bel mezzo degli eventi dell'epoca. Quindi, lungi dal vederlo come un singolo individuo, io cerco di vederlo e rappresentarlo nel mio romanzo come il personaggio, l'individuo che incarna, per così dire, un'entità più vasta, la società. Lui è lo specchio buio, lo specchio scuro della società svedese, quello che non vogliamo vedere noi. Vediamo lui, ma là dentro vediamo anche noi, il ruolo che noi svolgiamo in quanto individui, in quanto membri della società svedese, in quanto... Cioè, questo ragazzino, chiamato Er Negro dai vicini, poteva essere un nostro vicino di casa, mi spiego? E questo filo rosso attraversa tutta la vicenda, la nostra responsabilità, quella che abbiamo noi, perché noi avremmo avuto la possibilità di agire e forse non abbiamo agito. Cioè, è troppo facile dare la colpa a lui, singolo individuo, colpa sua, lui, è stato lui come individuo, la cosa non ha niente a che fare con noi, no, è l'inverso. Lui ha a che fare con noi perché è lo specchio oscuro della società svedese e anche forse direi in certa misura la società europea. Sì, c'è un altro tema che credo valga la pena affrontare qui con te, ed è quello anche per informazione nostra, perché noi italiani purtroppo siamo molto ignoranti in fatto di situazioni degli altri paesi. I nostri giornali sono estremamente carenti nelle pagine internazionali, si occupano moltissimo di tutto il pettegolezzo politico italiano, ossessivamente, pagine tutti i giorni, ma sugli esseri c'è sempre molto poco, e è uno dei problemi veri della crisi del giornalismo italiano oggi. Vorrei capire un po' meglio a che punto è il giornalismo in Svezia oggi e come mai le grandi inchieste lì come qui, perché anche questo vale in Italia, nascono come libri, non nascono più come inchieste giornalistiche come 15, 20, 30 anni fa. Insomma, prima c'era l'inchiesta giornalistica e poi semmai veniva fuori qualche volta il libro, però il libro era un accessorio, era secondario, l'inchiesta era il giornalismo. È interessante quello che dici, perché questo è un trend generale di tutta l'Europa. Io parlo della carta stampata, soprattutto lei ha avuto problemi finanziari e anche in Svezia vediamo gli articoli farsi più compatti, più corti, si avvalgono dei dispacci d'agenzia soprattutto che parlano di un unico evento e non mettono le cose in connessione con tutto il contesto, si manca la prospettiva. Quindi giornalismo investigativo più serio si sposta, come dicevi tu, e appare sotto forma di libro. È vero, in Svezia, in tanti altri paesi c'è stata una forte tendenza in questi ultimi 10 anni, diciamo, a andare direttamente alla forma libro, saltare al libro, cioè pubblicare i lavori di giornalismo investigativo direttamente come libro. E anche sul mercato c'è una grande richiesta di reportage oggigiorno. Allora, come stanno le cose? Una delle spiegazioni, secondo me, è che queste cose, queste notizie, questi lavori di indagine non si trovano nella stampa, nei media. E mentre la gente avrebbe voglia di, come dire, vedere le cose con una lente più allargata per avere una comprensione del quadro generale, ed è così, cioè il giornalismo investigativo non è più un lavoro sociale serio, va a finire direttamente nei libri, però questo spiega perché in qualche maniera poi questi incontrano una certa popolarità. E poi c'è la questione finanziaria, cioè io su questo progetto ci ho passato 2 anni della mia vita, un po' di fondi l'ho avuti, delle borse così, dei finanziamenti a fondo perduto, però ho chiesto anche un prestito in banca e avevo un certo contatto in banca, e questa persona mi ha detto: beh, se te sei abbastanza matto di mettere i soldi nella scrittura di un libro, boh, vedi te, per me è una cosa pazzesca, ma fai un po' come ti pare. Alla fine in realtà il libro ha avuto un grandissimo successo, non soltanto in Svezia, anche all'estero. Allora penso che ci vuole dedizione dal parte del giornalista investigativo, trovare cioè il modo di trovare finanziamenti per finanziarsi, perché il tempo è denaro. E come fai? Come fa chiunque a trascorrere un anno, 2 anni a indagare per fare un lavoro investigativo serio? Quindi se lavori con un editore, allora forse questo problema lo puoi aggirare, specie se ottiene una collaborazione da parte del giornalismo più serio. E c'è una curiosità che credo qualcuno anche nel pubblico ha: contribuisce a far conoscere meglio la Svezia il fenomeno molto diffuso in Italia, ma anche in altri paesi europei, dell'interesse per il poliziesco svedese, per la voga del noir alla svedese? Che funzione svolge questa forma narrativa che è esplosa in Europa, no? In Italia in modo molto impressionante, perché la letteratura svedese non ha mai avuto un grande corso in Italia, e all'improvviso invece attraverso il noir ci si interessa finalmente della Svezia. Sì, certo, naturalmente. Credo che questo boom, come dici tu, dei gialli, dei polizieschi svedesi, ha dato una mano anche al mio di libro. Può essere interessante ricordare che Stieg Larsson, l'autore della serie più popolare, la trilogia del millennio, è stato mio collega. Quindi abbiamo lavorato insieme nei primi anni 90. Siamo stati 2 tra i pochi giornalisti svedesi che si sono molto interessati, molto attivamente interessati, del lavoro di indagine sull'estrema destra. Quindi ci incontravamo di tanto in tanto e ci scambiavamo informazioni e dritte. Quando io ho cominciato a lavorare al mio progetto, come dicevo, ci ho passato sopra 2 anni, e più ci passavo tempo e più mi avvicinavo alla conclusione del libro, più mi facevo certo, persino un po' di paranoia: ci deve essere qualche altro scrittore che sta lavorando a questa stessa idea, perché tanto una buona idea, non posso essere io l'unico. Quando ho finito il mio libro, mi sono preso una birra con Stieg dopo la presentazione del mio libro, e lui mi ha detto: sai che cosa? Anch'io sto lavorando alla stessa idea di libro da anni, quindi mi sono reso conto che non ero io che ero paranoico, che c'era effettivamente anche qualcun altro che ci lavorava. Lui mi ha detto: sono contento che hai finito tu per primo, perché il tuo lavoro è molto buono, adesso io ho un altro progetto per cui nutro grandi speranze. Questa è stata la trilogia del millennio, il resto è storia, come si dice. Interessante però il fatto che effettivamente già negli anni 60-70 c'era una bella tradizione di gialli svedesi che hanno avuto successo anche sul mercato internazionale. Sieur Valen Valeur, sono pubblicati anche in italiano, questa coppia di autori, e questo ha dato una mano anche a me. Però per quanto mi riguarda, l'ho usato io stesso perché sì, un motivo per cui hanno avuto tanto successo presso i lettori è che non sono soltanto storie poliziesche su un delitto, ma inglobano anche o danno voce a gran parte della critica sociale che esiste nel paese. Questo che li rende unici. Prima erano soltanto svedesi, poi ne abbiamo letti anche di norvegesi, ed è per questo che diventano popolari, molto letti nel mondo. Io invece ho fatto il processo opposto. Avevo io un tema che volevo affrontare, non ho cominciato con la storia di un reato, di un delitto, e poi ci ho messo intorno a mo' di contorno, condimento, la critica sociale. No, io ho voluto descrivere una situazione e poi ho mostrato il lato criminale, tirando dentro la storia di Ausonius e del crimine da lui commesso, che è stato uno dei più terribili. Quindi inglobo la tradizione del poliziesco in un romanzo di tipo però di impianto diverso, perché sia più accessibile ai lettori, perché io voglio essere letto, cioè è una storia talmente importante e interessante che io voglio avere lettori, voglio essere letto, e quindi uno dei modi era cercare di utilizzare, di avvalermi di determinati aspetti del romanzo giallo dell'epoca che piacevano molto ai lettori, per ottenere che un maggior numero di lettori desse la sua attenzione anche a un libro che magari invece non avrebbe letto se si fosse presentato come una descrizione paludata e analitica del motivo per cui queste cose succedono nella società a una persona. Nel libro ci sono molti personaggi che mi sono risultati molto simpatici. Ecco, direi le associazioni degli immigrati e il modo come reagiscono a quest'ondata di xenofobia organizzandosi, facendo uno sciopero, siccome sono parte ormai interna all'economia svedese, insomma il loro sciopero qualcosa ha significato, e c'è ovviamente i poliziotti, e su questo ci sarebbe da dire, perché sono dei poliziotti che fanno molto onestamente il loro lavoro, sono persone convinte di quello che stanno facendo e che, contrariamente credo a quello che avverrebbe in un paese come l'Italia, non inquinano le prove, insomma, non arrivano con l'ideologia, non arrivano con i servizi, i mandati politici, diciamo, no, a intervenire nelle cose, insomma, sono professionisti, seri professionisti che hanno un compito da risolvere e cercano di risolverlo nel modo migliore possibile. E poi c'è un altro strano personaggio che è la regina, che è un'immigrata ella stessa, no? Ecco, su queste cose sarebbe, come dire, lì noi ritroviamo gli echi della Svezia che abbiamo molto idealizzato e molto amato in gioventù, almeno io. Sì. Ma il libro, come hai detto giustamente, ma possiamo affermare che vi sono tre linee parallele nel libro. Una riguarda la vita di John Ausonius, l'uomo laser, il serial killer. Poi abbiamo la caccia realizzata dalla polizia, e poi abbiamo una descrizione di quello che avviene all'interno della società, e quindi mostrando l'interazione tra quello che avviene all'interno della società e poi il singolo individuo. E poi vi sono dei personaggi interessanti, svariati, la regina per esempio. Mi sa che è nata in Sud America da genitori tedeschi, mi sembra, quindi lei stessa è un'immigrata, e come giustamente hai osservato, ed è un'osservazione divertente, no? Il partito di estrema destra, i democratici svedesi, che adesso anche sono in Parlamento, già dall'ultima elezione, per molti anni, è interessante perché erano a favore, sono sempre stati a favore, no, della monarchia, ma nel loro programma fino a un paio d'anni fa a un certo punto affermavano che tutti gli immigrati, gli extracomunitari o comunque che provenivano da oltre l'Europa, che erano entrati nel paese dal 72, dovevano essere espulsi. A quel punto la regina anche doveva essere espulsa, perché lei era nata in Sud America e nel 74 è approdata in Svezia, quindi a volte, no, è quasi una farsa, no? È un po' ridicolo. ridicolo se vediamo alcune di queste pretese politiche, un po' i messaggi che vengono inviati da questi personaggi. Però la famiglia reale in realtà ha anche svolto un ruolo, perché apertamente hanno anche pronunciato un discorso, si sono espressi pubblicamente condannando con grande energia questi omicidi, parlando dell'importanza dell'altro, tra virgolette, cercando di vedere quindi la società nella sua interezza. Io non sono un monarchico, comunque questo mostra che anche la monarchia svolge un ruolo nel modo in cui il discorso poi anche ufficiale viene proposto, no? E anche la direzione che viene impressa al discorso a livello nazionale. Io direi che i politici, sia di destra che di centro che di sinistra, non escono benissimo, sono pieni di remore, di contraddizioni, di paure, di paure di perdere voti soprattutto, di non, no, non sono, la classe dirigente non è molto diversa dalla classe dirigente europea di questi anni, che non è particolarmente edificante nei suoi comportamenti, insomma una classe dirigente di upper class che guida il mondo, guida una società a partire dai propri interessi molto di più che non dagli interessi collettivi. Però ecco, stiamo un po' per finire, io vorrei ancora chiederti un'unica cosa e poi se c'è qualcuno che ha delle domande, delle curiosità, insomma credo che sarebbe bene approfittare della presenza di Gellert. La cosa che volevo dire, io leggendo questo libro, l'unico momento in cui abbastanza presto mi sono un po' arrabbiato, perché mi è sembrato una caduta, è quando sono arrivati i corsivi con la voce del serial killer, cioè ci sono dei capitoli scritti in corsivo dove in prima persona, e lì io ho creduto, non avendo letto la nota finale, che fosse un'invenzione tua, che fosse, no, lì il romanzo diventava, e mi suonava falso, dico perché, no? Perché? Invece la cosa straordinaria è che l'uomo laser, l'inchiesta sull'uomo laser dà voce anche all'uomo laser. Da voce gli permette di dire la sua, che è una sua voce abbastanza sconclusionata, confusa, non è una persona perfettamente cosciente delle proprie azioni, cerca delle giustificazioni ideologiche, psicologiche, eccetera. Però il tuo rapporto, no, con questo signore, qualcosa ce ne puoi dire? Io penso, per l'appunto, il grande modello è sempre quello di A sangue freddo di Truman Capote, no? Il coinvolgimento dell'inchiestatore con l'inchiestato, con gli assassini in questo caso. Ma l'intero processo ha inizio quando Ausonius ha negato di essere l'uomo laser. In realtà era convinto, o almeno la condanna che gli è stata inflitta è stato l'ergastolo, ma sulla base di prove circostanziali. C'è stato anche proprio un dibattito, non si sapeva se vi fossero prove sufficienti in realtà per condannarlo, o magari, chi lo sa, poteva anche essere assolto. Ci sono voluti 10 anni finché a un certo punto ha ammesso di essere il colpevole. C'era una piccola nota, un articoletto in un quotidiano, e lui si è rivolto al proprio avvocato dicendo sì, sono stato io, e quindi ha ammesso questa sua colpa. Io l'ho contattato e lui ha consentito di incontrarmi. Il primo incontro è stato molto interessante, perché io non avevo trascorso molto tempo in prigione. Quando ha consentito di incontrarmi, io ho pensato, ma chi lo sa, no, magari come nei film, no? C'è questo vetro che ci separa con due poliziotti alle nostre spalle. Poi quando sono arrivato in carcere, le guardie mi hanno detto che ci sono anche delle misure speciali, no? Per quanto riguarda Ausonius, ci devono essere sempre almeno due guardie, non si può mai essere soli con Ausonius. E ho pensato, ma sì, beh, è accettabile se pensiamo al suo comportamento violento. movimento, e poi sono stato condotto in una piccolissima cella, 2 metri per 3, dove si incontravano i visitatori con i carcerati, c'erano queste due guardie, e poi l'hanno fatto entrare a Ausonius, e poi hanno chiuso la porta a chiave, l'hanno fatto, mi hanno chiuso a chiave con una persona che aveva ucciso 11 persone, e poi chiaramente, come molti carcerati, si è dedicato al bodybuilding, no? Molti pesi, quindi era un omone. Allora io, insomma, l'uscita d'emergenza era alle sue spalle, allora ho pensato, oddio, come faccio a uscire, come posso spingere il pulsante per dare l'allarme se succede qualcosa. Io cercavo di non dare nell'occhio, dico, oddio, se adesso fisso il bottone, diciamo, che fa scattare l'allarme, magari si arrabbia. Vabbè, un aneddoto divertente, però è interessante. Una volta che uno comincia a parlare con una persona, poi a un certo punto si crea un rapporto, no? Che si forma, è inevitabile. E io ho incontrato una persona che era intelligente, che parlava 3 lingue fluentemente, tedesco, svedese e inglese, che leggeva Newsweek e Time, queste famose riviste, e che aveva letto tutti i testi classici. Ma ho anche incontrato una persona che è il ricordo più vivo che ho da questi incontri, è la sua mancanza assoluta di emozioni e di empatia. Parlava del modo in cui aveva programmato, no, questi omicidi, come aveva acquistato il fucile, come aveva inserito il mirino laser. Come noi parleremmo della spesa, no? Che cosa abbiamo comprato al supermercato, no? Per la cena o il pranzo. E una volta mi ricordo che gli ho chiesto, ovviamente, no? Ma tu provi qualcosa per le tue vittime, no? Molti di questi sono sopravvissuti e comunque sono ancora in condizioni pietose, soffrono di dolori atroci ogni giorno, proprio per questo tuo tentato omicidio. Dice, ma tu che cosa provi nei loro confronti? Niente, è stata la risposta. Io so che io dovrei sentirmi dispiaciuto per loro, ma invece non sento niente, e questo è il problema che ho, lo so, mi ha detto, ha aggiunto. Quindi queste conversazioni hanno lasciato un segno profondo, e chiaramente si crea un rapporto, no? E potevo usare la cucina, quindi una volta, quando sono andata a trovarlo, aveva preparato una torta per me, che ci siamo mangiati insieme e che abbiamo anche finito, no? E per lui sono diventata una persona importante, però era anche chiaro. Dice, io voglio parlarti, voglio sentire qual è la tua versione dei fatti, però tu non avrai niente da dire per quanto riguarda il libro, no? È il mio libro che riguarda te, ma non è una collaborazione, no? E io voglio incontrarti e capirti, non voglio vederti una volta o due, allora non mi interessa, no? Quello che gli ho scritto nella prima lettera, voglio organizzare una serie di incontri seri con te, perché voglio capire. Ed è il motivo per cui io l'ho fatto parlare in prima persona, in corsivo. Ci sono 10 momenti nel libro, no? E che potete leggere, 1, 2 anche pagine senza interventi da parte mia, sono le sue parole in presa diretta, e io mi fido del lettore. Certo, dà fastidio leggerlo, e per questo ho inserito queste citazioni direttamente nel libro, perché dà un po' fastidio, anche ha dato fastidio anche a me, non solo a te. Io volevo a volte schiaffeggiarlo, e vabbè, schiaffeggiarlo non conveniva, soprattutto visto che era il doppio di me, no? È anche un omicida, insomma. Va bene, io non avrei altre domande, e spero che sia chiaro perché questo libro è molto importante e molto bello. Mi sembra che Gellert ci ha dato una serie di indicazioni su i modi in cui si dovrebbero fare dei libri del genere, sull'importanza che libri del genere hanno in questo momento storico all'interno dell'Europa, all'interno delle enormi trasformazioni che il mondo sta vivendo. Lo ringrazio moltissimo, però se c'è qualcuno che ha delle cose da chiedergli, è benvenuto. Io ho una proposta da fare, di andare a vedere il film Cesare morto, che può essere molto, soprattutto per l'ultima parte della sua conversazione, e quando ha parlato del carcere, eccetera, delle sue conversazioni con l'assassino, Mi viene in mente il film Cesare è morto e penso che l'autore, se ha un po' di tempo qui a Roma, lo vada a vedere, che gli piacerà moltissimo, come penso a tutti noi, ma perché si inquadra bene, credo, anche nel lavoro che lui ha fatto. È il film di cui lei... gli spiego che cos'è il film, perché non è tenuto a saperlo. È il film che ha vinto quest'anno il Festival Cinematografico di Berlino, opera di due registi italiani anziani, fratelli Taviani, che hanno fatto un film nel carcere di Roma su una messa in scena che i carcerati hanno fatto del Giulio Cesare di Shakespeare. Vabbè, è un consiglio ad andarlo a vedere, se ti capita in questi giorni è un consiglio sacrosanto. Thank you. Bene, io vi invito caldamente a leggere questo libro. Si diventa più intelligenti, più europei e meno complicati dal punto di vista dei nostri rapporti con l'altro. Io volevo chiedere all'autore, diciamo, in questo fenomeno come si pone la gioventù svedese, se la gioventù svedese, diciamo, ormai si è abituata a questa società multirazziale, o invece magari la parte importante dell'elettorato di questo partito di estrema destra che alle ultime elezioni è entrato in Parlamento. Grazie. È una domanda interessante, davvero. Gli elettori, secondo me, gli elettori del partito xenofobo di destra populista svedese, i cosiddetti democratici svedesi, per lo più sono gli stessi elettori che un partito analogo avrebbero in Francia o altrove, lasciamo perdere l'Italia perché non la conosco abbastanza, per lo più sono giovani, come dice lei, che vengono dalle campagne, per lo più giovani che si sentono fuori dalle grandi trasformazioni d'Europa. E questo è un tema molto, molto serio, è una questione seria con cui dobbiamo venire a fare i conti, però cosa interessante, ciò ci dimostra anche che i giovani delle grandi città, dove vanno il grosso degli immigrati, tendono a votare di meno per la destra xenofoba estrema degli altri, cioè questa ottiene i voti da gente, da svedesi che stanno fuori dalle grandi città e non ne sanno niente. Questo forse ci serve a capire qualche cosa, è un punto molto interessante, soprattutto se pensiamo ai giovanissimi che sentono che questo mondo globalizzato li sta lasciando indietro e che loro non beneficiano per niente degli aspetti positivi che pur ci sono. Un'ultima curiosità, stavolta mia, e seguendo il consiglio della signora che è cinematografico, esiste un fenomeno di cinema documentario di inchiesta in Svezia, televisivo o cinematografico fuori dalla televisione, che possa essere rapportabile a questi temi, cioè che investighi seriamente sulle trasformazioni della società? Sì e no, certo, nessuno lo fa bene come lo faccio io, dovrei dire così, ma a parte scherzi, è molto interessante questo punto perché qua parliamo di giornalismo serio che assume veste di libro e trova un pubblico, ma la stessa cosa vale per i documentari. Cioè, in Svezia non l'abbiamo visto in passato, ma adesso i documentari vengono proiettati nelle grandi sale, attraggono un sacco di spettatori e danno non soltanto i libri, mi scuso, non solo i libri, ma anche i film danno idee a, chi, a quegli scrittori che hanno voglia di scavare a fondo nella società, perché si vede che c'è un pubblico per questo tipo di prodotti culturali. Quindi come cittadini, come scrittori, come cineasti, ci interessa poter offrire un quadro un po' più ampio, non cerchiamo di dare subito la spiegazione, cerchiamo informazioni noi stessi. Un film realizzato da un documentarista svedese che conosco è stato proiettato qui, è Videocracy, avete presente? È andato, è stato proiettato e parlava della TV italiana e di Berlusconi, quindi non questioni svedesi, questioni internazionali. Cioè oggi esiste una forte tendenza in questo senso che ci dimostra che non è vero quanto dicono tanti che ai giovani le questioni sociali non interessano più, è il contrario, non c'è mai stata un'altra epoca, neanche negli anni 60 secondo me, in cui la gente si è tanto interessata alle questioni sociali come oggi. E anche in Svezia, ad esempio, gran parte dei miei lettori sono giovani che mi leggono, che non hanno un ricordo, una memoria personale di quello che è successo allora. Bene, su questa voce di speranza io chiuderei ringraziando moltissimo Geller Tamas per il libro che ha scritto, per il lavoro che svolge e anche per la sua capacità di raccontarci il senso, l'importanza del suo lavoro e che cosa sta succedendo oggi in Europa. Quindi in qualche modo lui ha parlato anche di noi, ha parlato anche dell'Italia. Grazie. Grazie. Grazie mille. This is working. Hi, sorry, I just wanted to say thank you very much. I'm Anne-Louise Dahlgren from the Swedish Embassy. And thank you to you all for being here today. And thank you, Geller Tamas, for being here. Thank you for liking Videocracy that I actually produced once upon a time before I started working with the Embassy. And I also wanted to make just one short question about... Volevo chiedere soltanto questa brevissima domanda, fare questa brevissima domanda riguardo al libro e riguardo a Ausonius, perché del libro è stato tratto un film da parte di un cineasta, credo svedese. Quali sono state le reazioni? E questo cioè, lei si mantiene in contatto con questo cineasta? Ah, ottima domanda. Mi scuso, lei si mantiene in contatto con Ausonius, l'assassino? Si stabilisce un rapporto con una persona che incontri e rincontri e ci passi ore a parlare, gli fai le domande anche più intime? E in un certo modo è stato difficile, però ho pensato fosse importante cercare interrompere il rapporto dopo la serie delle interviste, cioè perché io avevo bisogno di prendere una certa distanza, cioè non volevo che diventassimo amici tra virgolette, perché ho pensato che la cosa importante davvero fosse che io mi mantenessi il più critico possibile nei confronti di lui, di Ausonius, ma anche nei confronti delle politiche adottate dai nostri decisori. Gli ho mandato la copia del libro, però aveva l'autorizzazione a chiamarmi al telefono dalla prigione e mi ha detto due cose. Uno, il tuo libro mi è piaciuto molto, ottimo libro. E due, non vorrò mai più tornare a parlarti. Cioè, secondo me il libro gli è andato un po' troppo vicino. Chiunque di noi, guardate bene, avrebbe reagito in modo analogo ad Ausonius se qualcuno avesse guardato dall'esterno dentro la nostra vita, dalla nostra mamma alla nostra infanzia, alle nostre amicizie. Penso che per lui leggere il mio libro sia stata una sorta di psicoanalisi o di psicoterapia. E a me fa piacere che abbia reagito così. A, mi è piaciuto il libro, B, non ti voglio più vedere, perché in questa maniera mi ha rassicurato sul fatto che mi ero avvicinato a lui il più possibile, quanto era realmente possibile. Grazie.